EIAR, Ente Italiano Audizioni Radiofoniche. Dagli studi di Radio 24 in Milano trasmettiamo ora la trasmissione 1, nessuno 100 Milan. Ascoltatela, è una trasmissione italianissima. Uno, nessuno, 100 Milan, di Alessandro Milan, con Leonardo Manera. Siamo qui, cari ascoltatori, siamo qui alle 9:07 minuti, riparte una settimana di Uno, nessuno, 100 Milan. Siamo con voi fino alle 11, con tanti temi da affrontare. Oggi abbiamo... le notizie pregnanti che sono sui giornali. Parleremo di Silvia Romano, parleremo con il presidente della provincia autonoma di Bolzano Arno Compaccer della vicenda dell'Alto Adige di Bolzano. Parleremo di queste tematiche. Voi ci siete? 800 24 00 24 349-238-6666 per i vostri messaggi. Saluto tutti, l'Alpino in regia, con te c'è Danilo Di Trani, forza Milan, sempre avanti con il cuore rossonero, caro Danilo, come sempre, insieme a te, Lorenzo Nespoli, Miriam Lucchetti, Elisabetta Fusconi, la nostra redazione, e Vestaglione Manera che arriverà tra poco con noi. Allora, ci siamo? Ale, vai Alpino. Enthusiasm about the future. Adesso questi applausi del quartiere di Milano, il Casoretto, che come segno di accoglienza per il ritorno in Italia di Silvia Romano. Notizia che da sabato, quando è esplosa, mi ha reso immensamente felice. Abbiamo seguito qui la vicenda di Silvia Romano, ogni tanto l'abbiamo raccontata, abbiamo sperato e sono contentissimo. Guardate, lo dico subito ai tanti leoni da tastiera e agli odiatori che si sono scatenati anche su Facebook, nei miei profili mi hanno scritto, hanno scritto non a me perché sono colui che tiene il profilo Facebook, ma idealmente l'hanno scritto a Silvia, evidentemente degli epiteti irriferibili, delle frasi terribili. Guarda, non ho letto niente, ho letto qualcosa e poi non me ne sono più occupato, ve lo dico, non mi interessa, non voglio leggere nulla di persone che ritengo siano un po' aride dentro, no? Come quei fiumi che hanno perso l'acqua di colpo e si seccano. Non so, mi sembra che vediate tutto con un filtro nero, non negli occhi ma nel cuore, per cui vedete questi bei sorrisi della famiglia Romano, papà Enzo, mamma Francesca, sorella Giulia e Silvia che è tornata, e invece di empatizzare e gioire per il ritorno di un familiare a casa, dovete buttare così dell'odio. Perché? Non lo so, non mi interessa, non mi interessa tanto la vostra posizione. Sappiate, poi dopodiché si possono fare tutte le critiche, le domande del caso, ma la vostra posizione di odiatori, lo dico subito, non mi interessa. Se volete chiamarci per i dubbi che avete, 800 24 00 24, siamo qui. Di fatto Silvia Romano è tornata agli affetti più cari, alla sua amata casa in Italia, e ne sono immensamente felice. Però voglio convocare colui che oggi sulla stampa in prima pagina scrive questo nel suo commento: Dio, come pesa quel barracano verde, come ci annaspiamo dentro. È come se lo gonfiasse tutto quello che in questi mesi interminabili Silvia Romano ha attraversato, come se avesse voluto portarli con sé, la prigionia, la violenza del sequestro, i segni dei nuovi indemoniati che ritengono che tutto sia permesso non più perché Dio non esiste, ma anzi proprio perché per loro il suo esistere li rende fanatici. L'inviato della stampa Domenico Quirico, buongiorno Domenico e grazie di essere qui. Buongiorno. Buongiorno. Perché Domenico Quirico questi fanatici li ha conosciuti, li ha visti, lo hanno anche tenuto in prigionia in Siria per 5 mesi. E allora si può fare una riflessione su quel vestito verde, su quella dichiarazione, sono islamica per libertà. Ecco, io l'aggettivo libero è proprio l'aggettivo che non associerei a Silvia Romano in questo anno e mezzo, è un po' singolare, no? L'utilizzo di questa parola, libertà. Cosa possiamo credere, Quirico, di questo? Dunque, mi accodo a quello che lei ha detto prima, cioè quello che Silvia Romano ha vissuto in questo anno e mezzo, 2 anni di prigionia. E quello che viene dopo, cioè quello che è iniziato 2 giorni fa con la liberazione, con il ritorno a Roma, adesso credo con il ritorno a Milano, alla sua famiglia, appartiene solo a lei. Cioè è la cosa più preziosa che lei si è portata dietro in un momento in cui non aveva più nulla. E tutto quello che è accaduto in questo periodo, è quello che accadrà dopo. Quello che lei metterà, deciderà di colmare con quello che sono le sue passioni, le sue gioie, i suoi dolori, i suoi incubi, possono esserci anche quelli, per carità, e gli appartiene, è solo suo, nessuno glielo può, non lo deve spartire con alcuno. Allora, come lei giustamente ha detto, tutti quelli che ci seminano questa lercia letteratura dell'odio, dell'insofferenza, del sospetto e tutte queste cose qua, ma anche tutto quello che è speculazione sul perché ha fatto questa scelta, non l'ha fatto, io molto umilmente mi fermo alla soglia di tutto questo e alla gioia del fatto che sia tornata viva. Certo, magari si potrà fare una riflessione a capire se sia stata mandata un po' allo sbaraglio e una riflessione sulla sicurezza di tutti coloro che lavorano, che fanno un lavoro nelle onlus in tutto il mondo, questo forse si potrà fare come questo riflessione. Si può fare, esistono, cioè quando noi parliamo di organizzazioni non governative che fanno assistenza, supporto ai paesi del terzo mondo, usiamo una parola un po' valigia, cioè ci mettiamo dentro cose molto diverse. Ci sono organizzazioni milionarie che possono permettere dei fatturati come quelli della Fiat piuttosto che di General Motors, che possono permettersi compound super sicuri, guardie, mezzi che viaggiano in convoglio e tutte queste cose qua. E poi ci sono quelli che invece tutto questo non hanno, ma che svolgono forse che intrecciano le maglie più fitte e più vere della cooperazione. Allora, chi sceglie questa strada? Sceglie anche evidentemente la strada dell'entrare in un mondo che è un mondo pericoloso. È un mondo in cui non ci sono solo sorrisi, bambini felici e feste, è un mondo in cui ci sono gli shabab, ci sono i talebani, ci sono tutta questa marmaglia tremenda. Ecco. Ecco, però per tornare alla questione insomma di cui ho letto un pezzettino del suo editoriale, oggi per chi volesse leggere sulla stampa, poi prosegue a pagina 5 tutta l'analisi di Domenico Quirico, anche a lei mi sembra un po' disturbato, forse non è il termine giusto, ha fatto fare una riflessione profonda questo vestito che ha un significato ben preciso, no? Questo vestito è una scelta di Silvia Romano di tornare vestita così e non abbigliata in modo diciamo occidentale, ed è una scelta in cui ognuno può leggere molte cose, io faccio un lungo racconto di quello che è una pratica dei sequestratori islamici, ma non ho fatto delle scoperte sensazionali, semplicemente l'ho vissuta, cioè l'ho fatto. Adesso poi non so se il caso di Silvia Romano sia questo, perché io Silvia Romano non la conosco, non le ho parlato, non lo so. Viene offerta la conversione, e gli viene offerta non come dire una specie di passaggio burocratico, gli viene offerta perché nella loro mentalità, diciamo, di una immanenza di Dio nella storia e anche nelle loro purtroppo sanguinarie attività, la possibilità che l'infedele si converta e scelga la via della vera fede deve essere offerta. C'è proprio un'idea di voler salvare il miscredente dal peccato. Ma adesso, tanto per non fare diciamo, non puoi stare al fianco all'accusa dell'islamofobia, ma questo lo faceva anche la Santa Inquisizione. La Santa Inquisizione non si limitava ad accertare la colpa, voleva la confessione e la conversione dell'eretico o del trasgredente. Fortunatamente, Quirico, con l'illuminismo noi magari sotto questo profilo abbiamo fatto qualche passo in avanti. Non dimenticarci che siamo passati anche noi di lì, perché altrimenti facciamo un discorso un po' monotematico. Allora faccio questo. Allora, in un sequestro ci sono tante cose nel corso di un sequestro. C'è la paura, c'è l'angoscia del tempo che passa, c'è Dio. Questa è gente che proclama di essere, come dire, il braccio di Dio sulla terra. E l'incontro con Dio in un sequestro può avvenire in molti modi, Può avvenire con il proprio, che sembra averti abbandonato, ma a cui tu ti rivolgi, può avvenire con il Dio, paradossalmente, di coloro che ti fanno il male. E questo è possibile, Certo. Si è parlato molto di sindrome di Stoccolma, si è parlato molto. In realtà nessuno sa che cosa. Beh, lei forse lo sa un po' più di noi chi ha inventato la sindrome di Stoccolma, come dico io, non è mai stato prigioniero neanche per un'ora in un ascensore bloccato. È una stupidaggine colossale. Non c'è nessun amore nei confronti di chi fa del male. Non esiste. Non esiste. È una sciocchezza colossale. Il rapporto con chi ti fa del male è un rapporto violento, unilaterale, non che c'è un ritorno, è un rapporto violento, unilaterale. Tu sai che quella persona ti sta privando della libertà, che può ucciderti da un minuto all'altro, che il fatto che quel giorno ti abbia guardato in un certo modo può essere il segno che ti vuoi ammazzare. Ma che sindrome di Stoccolma c'è in tutto questo? Ma chi è il cretino che ha inventato questa cosa? Certo, c'è solo la voglia di aggrapparsi al nulla che uno ha, perché immagino che sia il nulla quando si dipende veramente dalla volontà di chi ti ha privato di tutto, a cominciare da. Leggo, non lo so, perché se queste cose sono vere, perché poi sono sempre le rivelazioni, le uniche cose che sa Silvia Romano, che non credo abbia rilasciato alcuna. Che abbia composto in questo suo lunghissimo tempo un diario, cioè scriveva ogni giorno. L'ho fatto anch'io, L'ho fatto anch'io, e anche a me, come pare da questa narrazione, all'ultimo giorno questo è stato tolto. Sì. Allora, questo è un elemento importante, perdere il contatto con il tempo. Ma ci si ricorda di quel diario? Lei se lo ricorda? Si ricorda che cosa scriveva? Non sarei in grado di ricostruirlo, perché nel momento in cui tu sei liberato, almeno è accaduto a me, non voglio fissare delle regole generali, ogni che questo ha una storia sua, in luoghi diversi, persone diverse, storie diverse, ognuno di noi è diverso. Quello che è accaduto, che prima era fissato in modo, come posso dire, matematico nella mia mente, ogni secondo, quello che era successo quel giorno, quello che aveva detto Tizio, quello che aveva fatto Caio, lo spostamento, la casa, l'ombra, la luce, la bomba, eccetera, comincia a sparire come una macchia d'acqua, di umido sul muro, non riesci più a afferrarlo. Beh, forse è una sorta di anche salvezza che ci concede il cervello, no? Di voler cercare di cancellare qualcosa. Sì, questo è possibile. È possibile. Comunque, Domenico Quirico, intanto grazie. Ripeto, oggi leggete, se prendete La Stampa, Domenico Quirico che è passato attraverso questa esperienza. Poi ogni esperienza di sequestro è diversa dalle altre. Per Domenico Quirico è stata 5 mesi in Siria, ne racconta oggi delle impressioni ricevute dalle immagini di Silvia Romano scesa dall'aereo sulla stampa. Il titolo è Le donne prigioniere della Jihad, vittime dei ricatti nel nome di Dio. In ogni caso, chiamateci, molti dicono i soldi, il ricatto, il riscatto, chi dice 4 milioni, oggi su qualche giornale c'è scritto che sono 1 o 2 milioni. In ogni caso, le considerazioni fatele all'800 24 00 24, perché adesso ci rituffiamo sulle questioni italiane, puramente italiane, anche questa di Silvia Romano lo è italiana, ma io sono colpito per tutta questa vicenda, le regioni che vanno un po' ognuno per conto proprio, le province autonome, eccolo qui uno dei protagonisti assoluti della politica in questi giorni, è il presidente della provincia autonoma di Bolzano, Arno Compacer. Presidente, buongiorno e grazie di essere qui. Buongiorno a voi. Allora, intanto le chiedo, perché da oggi nella provincia autonoma di Bolzano sono riaperti anche i ristoranti, i bar, i parrucchieri anche, cioè lei ha già constatato che ci sono attività che hanno riaperto proprio il locale? Sì, bisogna dire che la situazione è piuttosto tranquilla, perché non c'è turismo ovviamente, per quello diciamo anche le strade sono comunque relativamente deserte. Sì, hanno riaperto i negozi e anche questi servizi, però con tutte le misure di sicurezza previste nella legge stessa, che sono molto molto severe. Noi abbiamo l'obbligo di portare la mascherina da oltre un mese, abbiamo la distanza interpersonale da rispettare di 2 metri e ovviamente anche tante altre misure, soprattutto per quanto riguarda poi i rapporti tra le persone all'interno dei locali dove si danno il servizio, ovvero diciamo all'interno dei negozi. Ecco, mi faccia capire, perché il governo, dopo aver impugnato l'ordinanza della Calabria e avere vinto almeno in primo grado al TAR, ora dice ora faremo lo stesso con l'Alto Adige. Lei ha detto siamo sicuri della nostra legge, reggerà. Intanto mi faccia capire i tempi e quando ci sarà un pronunciamento a favore dell'uno o dell'altro. Ma questo dipende sicuramente anche dalla consulta stessa, dipende anche adesso dal governo, diciamo che modo sceglie anche per l'impugnazione, perché la legge sulla Corte Costituzionale prevede anche un iter accelerato. Io credo che non sia il caso, anche perché noi rispettiamo la nostra legge, assolutamente anche i diritti della legge nazionale per quanto riguarda il tema sanitario, invece per quanto riguarda le altre tematiche abbiamo la competenza legislativa primaria, cioè ciò si differenzia dalla nostra autonomia, anche la nostra non è un'ordinanza come quella della Santelli, ed è una legge, e soprattutto diciamo abbiamo delle prescrizioni molto ma molto severe che vanno sì, in tanti casi ben oltre diciamo quello che oggi sono le regole a livello nazionale. Vabbè, insomma, diciamo, però non c'è un giorno preciso nel quale si deciderà. Per il momento lei dice vale. Beh, noi siamo in continuo dialogo col governo, ovviamente. Io ho apprezzato personalmente. Ma ah sì? Diciamo, cioè, mi sembrava che ci fosse un po' di tensione in realtà, perché. No, il tema è ovviamente c'è una diversità di vedute sullo strumento che abbiamo utilizzato, la legge provinciale, e anche magari su qualche data, sulla tempistica, però noi abbiamo collaborato in tutto questo periodo, abbiamo apprezzato molto anche l'attività, l'azione di governo nella fase emergenziale, che secondo me è stata molto tempestiva e adeguata. Adesso per la fase 2 noi avevamo chiesto da tempo una differenziazione, anche perché il tasso di contagio era 0, in Alto Adige è più basso d'Italia, è sotto il 0,50 attualmente, sì, sì. Perciò noi crediamo di poterci muovere ovviamente di piombo e responsabilizzando soprattutto i cittadini, questo è l'approccio. Lei ha detto in un'intervista, credo al Corriere della Sera, ai propri cittadini: attenzione, perché rischiamo una figuraccia, cioè se non ci comportiamo bene, se non rispettiamo le regole. Lei non teme che possa ritornarle indietro come un boomerang, dovessero aumentare per esempio i contagi, cosa che speriamo non accada? È una grande responsabilità che ci assumiamo, proprio per noi autonomia è sinonimo di responsabilità e tra l'altro anche di solidarietà nel sistema paese, questa è la nostra interpretazione e perciò ho cercato anche di un attimino richiamare i miei cittadini, è un orgoglio anche diciamo di dire guardate adesso dobbiamo anche dimostrare che siamo così responsabili come diciamo, io spero che la reazione sia proprio quella. Tra l'altro la legge prevede comunque una commissione di esperti che monitorizza ovviamente tutta la situazione e se fosse poi il caso diciamo anche di una ricaduta noi dovremmo subito intervenire con ordinanza in quel caso diciamo e tornare sui nostri passi. Quindi insomma è molto, la sento molto tranquillo insomma su questo, anche a dire c'è un'interlocuzione, i giornali invece parlano un po' di rapporti tesi, ecco, so che lei ha sentito il ministro Boccia per esempio, so che vi siete sentiti, so che sì, ci siamo sentiti spesso in questi giorni, ci siamo whatsappati per così dire anche ieri tarda notte ancora whatsappati. E cosa gli ha detto? Cosa gli ha detto? Presidente, no, ma cosa lui, fa? Lui, da domani? Insiste sulla linea del governo che dice niente fughi in avanti neanche per l'Alto Adige. Cioè, c'è stato anche nel livello tecnico un apprezzamento per la nostra legge, va detto anche questo, che è scritta bene, l'hanno ripetuto, però ho detto guardate che potevate aspettare ancora qualche giorno. Io credo che comunque fra una settimana... E lei cosa gli ha risposto? È vero, diciamo, cioè una settimana in fondo non era tantissimo, no? Se si riparte in qualche modo. Ma per voi era anche una questione di principio, no? Perché se nella prima fase ovviamente anche la minorazione delle nostre prerogative... la nostra autonomia era accettabile, anzi è ovvio che si doveva procedere in modo unitario in una situazione di pandemia, però adesso per la seconda fase noi dobbiamo anche di nuovo poter gestire la cosa anche nei limiti di quello che la Costituzione proprio ci dà come margine autonomo anche di legislazione. L'ultima questione è questa, è minimamente politica, Presidente Compace, perché qualcuno ha fatto notare che lei ha fatto partire l'ordinanza al giorno in cui si diciamo ricorre la fondazione del partito cui appartiene, cioè la Südtiroler Volkspartei. Ci sono state anche delle scritte più che autonomiste, separatiste, no? Via da Roma, che sono apparse in quelle terre. Ecco, l'unità è garantita, insomma, non è un'azione più che autonoma, quasi anche pseudo separatista questa. No, anzi, proprio la dimostrazione, noi crediamo nell'autonomia, questa è stata la strada che ha portato successo a questo territorio e direi all'intero sistema paese, diciamo alla fine l'autonomia è un bene per tutti, perché noi siamo anche pagatori netti nel sistema italiano, che non è che siamo un costo per il sistema paese. E io credo che questa è stata la dimostrazione che noi non abbiamo le idee separatiste, secessioniste, ma vogliamo all'interno della nostra autonomia poter gestire in uno spirito di governo, autogoverno responsabile, ma anche di leale collaborazione, anche situazioni difficili. E proprio per questo, questa era la risposta per i fuochi nella notte, che sono sicuramente diciamo un gruppo di stretta minoranza, che ha espresso diciamo qualche mal di pancia, però la nostra risposta è no, proprio l'autonomia che ci è stata concessa dal sistema costituzionale italiano è la risposta ed è la chiave di soluzione. Sì. Se arrivasse una bocciatura così mettiamo il politico Compace come risponderà, cioè se la Consulta dovesse bocciare la vostra legge? Innanzitutto dovrei rispettare la decisione della Consulta, perché ovviamente la nostra autonomia è anche garantita dal sistema costituzionale italiano. Cioè, non posso dire mi piace quando siamo difesi e non mi piace invece quando siamo chiamati noi a cambiare diciamo, il nostro orientamento. Però io credo che abbiamo delle argomentazioni molto molto valide e possiamo ovviamente difenderci, però continuare anche il dialogo col governo. Io credo che tutto si possa risolvere anche perché il nostro approccio è davvero credo responsabile e soprattutto anche sempre nello spirito di una leale collaborazione dei vari livelli di governo. Lei è sicuro di questo? Adesso vedremo ovviamente gli sviluppi nei prossimi giorni, intanto la ringraziamo. Grazie Arno Compace, Presidente della Provincia Autonoma di Bolzano, altrettanto. Questa è la decisione, l'idea delle fughe in avanti per chi la vede come una critica, di chi invece dice no, noi dobbiamo in nome dell'autonomia fare questo anche perché ci sono regioni dove i contagi sono minori, e quindi nella provincia autonoma di Bolzano oggi aprono parrucchieri, anche i parrucchieri, pensate, che erano le attività date come per ultime, e poi bar, ristoranti, eccetera, eccetera. Va bene, dai, andiamo un attimo in pubblicità, poi torneremo con ospiti, con Leonardo Manera, state con noi. Uno, nessuno, 100 Milan. Alessandro, Silvia Romano, per sua scelta è andata all'estero, ha avuto i suoi problemi ed abbiamo pagato per farla rientrare. I nostri connazionali che erano all'estero in questi mesi hanno avuto i loro problemi e sono ancora all'estero, e non paghiamo per farli rientrare perché devono sborsare di tasca loro. Quelli che si indignano per il riscatto dato per salvare Silvia Romano, com'è che non si indignano per gli stipendi dati ai politici che rubano, o i soldi nostri che finiscono in appalti truccati o in servizi fatiscenti? No, si indignano per il riscatto dato per salvare una ragazza che era andata in Africa ad aiutarli a casa loro, come dice qualcuno, aiutateli a casa loro. Ecco, lei c'era andata. Milan, visto che lei non ha il cuore nero, volevo ricordarle che il gruppo che ha rapito Silvia Romano nel 2015 ha ucciso a sangue freddo 148 studenti in un college del Kenya. Milan, sai perché rapiscono gli italiani? Perché sanno che gli italiani pagano dei super riscatti. I paesi seri, tipo Stati Uniti, eccetera, Inghilterra, non li pagano i riscatti. Svegliati, Milan, svegliati! Sono sveglio dalle 7, dai, sono sveglio dalle 7, caro ascoltatore. Allora, saluto Leonardo Manera. Eccolo. Buongiorno. Buongiorno. Sentite, comincia una settimana piena di polemica, a quanto mi pare di capire, no? Beh, sì, questa notizia è invoglia. Oh, voglio fare altre due polemiche. Notizie anche. Sì. No, dico tante due belle notizie, per sono poco alla volta. Per esempio, dammi una bella notizia a sto punto, tante belle notizie, dico, sento una. Che poco alla volta si ricomincerà anche con i ristoranti, però secondo me si potranno riaprire i ristoranti, però durante la cena i clienti dovranno tenere le mascherine. Io lo vedo così, cosa ne pensi tu? Sì, diventerà difficile mangiare e contemporaneamente tenere la mascherina, però potrebbe essere una norma per evitare il contagio. Tavoli a 4 metri, mascherine mentre si mangia, non lo so, potrebbe essere. Con la taschina che si alza e infili il cibo. Allora, volevo renderti felice, oggi ho trovato un'intervista al tuo ministro Dario Franceschini, ministro anche per i beni culturali, fa una bella intervista al Corriere della Sera. Io ho cercato, parla molto dell'estate, ho cercato a lungo mezza frase sulla riapertura dei teatri per permettere di farti fare gli spettacoli, per permettere a molte persone di lavorare, mezza frase, non l'ho trovata. Degli spettacoli non gliene frega niente a nessuno, ma poi peraltro in questo periodo invece i social sono pieni di intrattenimento di vario tipo di cui si fa largo uso. Però quindi di dici già che è gratis perché riapriamo i teatri e si fa sui social, 500 mila persone che lavorano nel settore, evidentemente insomma interessa poco a tutti. Vabbè, adesso cambieremo tutti il lavoro, cercheremo altre attività. Altra polemica, prima di salutare il nostro ospite, è questa. Ragazzi, io non ci credevo, l'ho trovata sul Quotidiano Nazionale, l'ho trovata sulla Verità, questa notizia che è vera. All'interno delle 430 pagine del decreto che stanzia i fondi per sostenere imprese e famiglia, c'è l'articolo 133, una norma che, udite, anticipa ad agosto i soldi del 2 per 1000 per i partiti politici che avrebbero visto questi soldi solo alla fine dell'anno. Questa norma anticipa con una sostanzioso anticipo del 2 per 1000 ad agosto i soldi per i partiti, cioè i partiti si regalano il 2 per 1000 in anticipo. Ma io dico, ma porca... Allora, prima dobbiamo dare un premione giacchetto Giacchetti oggi, premione Giacchetti. I partiti si regalano. Avete la faccia come il culo. Ragazzi, ma io dico, ma in questo momento storico, anche solo un gesto del genere non vi spinge a dire forse non è il caso di farlo nei confronti dei cittadini? Che, cioè, i partiti, ricordiamo che l'anno scorso il PD ha preso 8 milioni e 4, la Lega 3 milioni, tutto legittimo, è da 2 per 1000, Fratelli d'Italia 1 milione e 17, 1 milione e 170 mila. L'unico, questo va detto anche per correttezza, che non partecipa a questa divisione della torta è il Movimento 5 Stelle, perché si è rifiutato di dare lo statuto e quindi non accede ai fondi del 2 per 1000. Ma tu sei polemico, sei polemico e non capisci la funzione sociale di questa operazione, sì? Che tu non riesci a... è per favorire il turismo. Perché metti che un partito voglia fare il congresso a Rimini, per esempio, e non hai soldi, sì? Per farlo. Invece con questo 2 per 1000 può fare il congresso a Rimini, riempire gli hotel di Rimini e quindi favorire la ripresa del turismo. Sì. Io la interpreterei in questo modo. 18 milioni da distribuire, il 40% di questi vanno al PD, scelte dei cittadini, 2 per 1000, per carità. Non l'abbiamo chiamato per questo, ma forse una cosa su questo da vecchio consigliere regionale ce la può dire. Giovanni Favia, buongiorno, ve lo ricordate? Ex consigliere regionale, prima del Movimento 5 Stelle, poi uscito. Favia, buongiorno. Buongiorno Milan, buongiorno. Come va? Bella questa, l'ha sentita questa che si anticipano i soldi del 2 per 1000? Ha detto bene Giacchetti, hanno la faccia come il... Vabbè, come il premio, come il premio. Allora, Giovanni Favia oggi è un ristoratore, di fatto, è proprietario di... A parte che ho letto di 5 locali, ma che 5? Quanti locali ha? Perché c'è il mistero. Sono arrivato ad averne 8, però tra vendite e affitti d'azienda... La gestione di fatto sono 3 più 1 in apertura, gli altri sono in affitto. Ah, va bene, a Bologna. Allora, la notizia è stata uscita sui giornali che si è beccato la multa. Cioè, ci spieghi un attimo, nel senso che ci sarebbe stata una riunione con una serranda semi abbassata, sono passati i vigili urbani o non so chi, le hanno dato la multa, qualcuno parla di urla... Intanto è stato multato, questo sì, è vero. Sì. È una follia, qui dedico 30 secondi. Siamo rientrati nel ristorante quando il decreto lo ha consentito, perché i ristoranti potrebbero essere aperti con l'asporto, per sistemare un lavoro che dobbiamo fare ovviamente con tutto lo staff, perché noi non lavoriamo sul computer, noi i piatti non li disegniamo, li prepariamo, li portiamo, è il nostro lavoro di squadra e fisico, reale. E a seranda totalmente abbassata, un dipendente ha alzato la seranda a metà per uscire a fumare una sigaretta, in quel momento è passata una pattuglia, poi è andata a parcheggiare, lui è rientrato, la seranda è stata riabbassata e la polizia municipale ha iniziato, è arrivata a picchiare contro la seranda, a urlare, io ero in bagno, sono uscito, ho fatto aprire e sono stati un'ora dentro, non avevano grandi motivi, diciamo, perché ho mostrato i contratti di lavoro che erano tutti dipendenti, tra l'altro tutti in borghese, il cuoco con la Lacoste non è che può cucinare se non c'ha la casacca, quindi chiaramente non eravamo aperti al pubblico, il registratore di cassa era spento, era tutto spento, le vetrine frigo, eccetera, eccetera. Hanno fatto la multa perché senza mascherina il locale è aperto al pubblico. Anche io ho fatto presente che il locale non era aperto al pubblico e lui ha indicato la seranda mezza alzata, che dovevamo alzare per fare entrare il poliziotto, e ha detto, ah, una persona da lì sotto potrebbe passare. Io ho detto, ma è aperto al pubblico? Chiuso al pubblico non significa impenetrabile, significa che se si affaccia qualcuno, nel caso, gli dico che siamo chiusi. In più l'abbiamo alzata per far entrare voi, perché prima della sigaretta era chiusa e l'abbiamo richiusa appena dopo la sigaretta. Quindi c'è stato un abuso. A quanto ammonta questa multa? Quanto ammonta? 400 euro. Accidenti. Che di sti tempi, già per i ristoratori in difficoltà, non è il massimo della vita. Sì, ma, guarda, ma io le voglio chiedere, ma veramente le è stato detto così? Veramente le hanno detto una persona da lì sotto potrebbe entrare? Con la seranda mezza abbassata? E io ho pubblicato il verbale, quindi la dinamica è raccontata dagli agenti. Io ho pubblicato il verbale su Facebook, proprio per far vedere che non ci sono due versioni come spesso accade. Solo analizzando il verbale, quella è una multa illegittima. Per questo mi rifiuto di fare ricorso, mi rifiuto di pagarla e ho chiesto al Presidente della Regione, che è competente perché... è un decreto regionale, che l'annullino, come ha fatto il questore di Milano con le multe ai ristoratori milanesi. Ai ristoratori. Sì, adesso io non so, cioè, temo che ci sia un po'... No, tu Leonardo punti molto il dito su questo fare molto inquisitorio che noti quando andando in giro. Anch'io l'altro giorno passavo sotto casa, ma perché fanno il loro lavoro, passavo sotto casa, mi sono fermato perché ho incrociato la proprietaria della pizzeria dove vado a prendere, al Gargano, ecco lo dico, dove vado a prendere, la signora Rita. Ci siamo eravamo a un metro e mezzo di distanza con la nostra mascherina, a parlare, a fare due chiacchiere, a dire come va. Riaprite, si è fermata una pattuglia della polizia, ci hanno squadrato, si vedeva che c'era il tono come dire fai una mezza mossa, tipo che tiri giù la mascherina sotto il naso che scendo e ti multo, no? Probabilmente c'è questa tensione anche da parte di sicuramente delle forze dell'ordine che fanno bene il loro lavoro, ma anche pronti a dire guarda che ti becco, no? È così però aveva la mascherina normale. Il problema è che non sono i 400 euro, io ho perso 400.000 euro di ricavi, il problema non sono i 400 euro, il problema certo. È l'umiliazione, c'erano tutti i miei dipendenti che da due mesi non vedono lo stipendio, mi hanno chiesto un aiuto personale perché non sanno come fare la spesa alcuni, perché da due mesi non vedono la cassa integrazione, cioè due mesi di stipendio non, e arriva lo Stato e ci multa quando loro avevano tutti la mascherina, io non l'avevo, avevo appena finito di mangiare e dovevo parlare ai miei dipendenti ed ero in un locale di 280 metri, eravamo in 5. Allora, con aggressività poi, è quello lo sconforto. Lo Stato è l'unico del G7 che non sta aiutando direttamente le imprese, in ritardo sui suoi adempimenti e poi ti ritrovi una multa insistente e contra legem, quando poi noi siamo stati anche educati. Io ho un po' alzato i toni quando mi ha fatto la lezioncina morale del contagio da uno Stato che non ha protetto le RSA, che non è riuscito a dare i presidi ai medici, eccetera, eccetera, non permetto lezioni morali facendo ricadere su di noi la responsabilità di un contagio, perché magari facciamo due passi a piedi o perché siamo a fare un giro in bici o perché siamo a fare il nostro lavoro nel ristorante rispettando le norme, tra parentesi, perché eravamo tutti a distanza di sicurezza. Vabbè, vediamo come va a finire, Giovanni Favia. Intanto grazie. Certo, anche questa cosa delle cassa integrazione che non arriva. Conosco un altro amico ristoratore, l'ho incrociato. È bella anche questa idea che iniziando a far passeggiate si comincia a rincrociare persone, no? E mi ha detto: ma io guarda, non apro perché se apro, poi dipendenti, se apro in queste condizioni, i dipendenti poi sono sul groppone mio, come dire, mentre almeno così arriva la cassa integrazione, sempre che arrivi. Cioè ci sono anche queste scelte personali che sono tutte rispettabili, sono tutte capibili, perché sono situazioni davvero al limite. In tutto questo vorrei dire, mi tocca parlare per una volta bene di Barbara D'Urso, che ieri sera da Barbara D'Urso il professor Remuzzi, mi sembra, ha detto che in questa fase dell'ospedale di Bergamo, il professor Remuzzi ha detto che in questa fase il virus ha molta meno forza e violenza ed è meno grave di quanto si manifestasse invece tre settimane fa. Devo dire sì, che il virus è ritirato. C'è anche il professor Silvestri, che è molto stimato in America, ha detto: il virus è molto indebolito, ma se lo dico mi linciano, cioè non so perché i colleghi mi linciano. Comunque approfondiremo magari questo tema. Andiamo al traffico, perché poi ti voglio far sentire un nostro ascoltatore dall'Olanda per capire una sorta di paragone. Uno, nessuno, 100 Milan. Milan, e io pago, e io pago. Milan, finto buonista. L'alpino in regia era anche alla donata virtuale degli alpini a Rimini. Chi lo sa, chi lo sa, ma lui è solo se vede grolle che girano. Va bene, allora Leonardo, senti qui, ci ha scritto un caro ascoltatore, Giovanni, che dice in Olanda, ci ha scritto una lunga mail, la riassumo così, in Olanda le conferenze del Premier sono mensili, durano 20 minuti, Le misure sono riassumibili in un post-it, tipo rimanete a casa, uscite in gruppi di non più di tre, rimanete a un metro e mezzo di distanza, i negozi restano aperti e rispettate le regole. Giovanni, Giovanni, pazienza, Giovanni, buongiorno, dall'Olanda. Ciao, buongiorno dall'Aia. Leonardo e buongiorno. Ciao. Alessandro, buongiorno. Allora, si può anche avere un rapporto, come dire, di responsabilità civile tra istituzioni e cittadini e cavarsela? Sì, si può. Responsabilità è la parola d'ordine. Responsabilità del governo verso i cittadini, come dice il presidente della provincia adesso, e responsabilità dei cittadini verso la comunità e il governo. Quindi sì, si può vivere responsabilmente. Ecco, per esempio, c'è un tema molto interessante. Quando, tu ci hai scritto nella mail, quando la polizia trova una persona fuori, si parte dal presupposto da parte della polizia che questa persona abbia diritto a stare fuori, cioè non il contrario, ti controllo perché probabilmente sei un furbetto. È un ribaltamento, incredibile di prospettive. Esatto, è esattamente quello che dici, per cui ci sono delle regole molto precise, non si può essere fuori più di due persone insieme alla volta. Se vedono più di due persone la polizia si avvicina e ne chiede la ragione, e spesso fa anche le multe se c'è la ragione, ma se ti vede da solo in bici o in due a piedi non c'è nessunissimo problema e assume che tu lo debba fare, magari per fare una passeggiata, se sei con i tuoi figli, se devi andare al lavoro o qualsiasi altra cosa. Nessuno mi ha mai fermato. Nessuno mi ha fermato. Come va in Olanda? Sai che adesso l'Olanda è vista come il paese censore. Io ho ricordato, come tu mi hai scritto nella mail, la famosa legge non scritta, la legge Fracassi. Te la ricordi, Leonardo Manera, inventata forse da un diplomatico italiano? La legge Fracassi, Leonardo, non ricordo più di cosa si occupava. Dell'Europa, dai, la legge Fracassi. Nel dubbio, beep, ai Paesi Bassi, non te la ricordi. No, ragazzi, ero sparito completamente, ero sparito dalla app, non so se adesso mi sentite. Adesso ti sentiamo, te la ricordi la legge Fracassi inventata da un diplomatico italiano? Legge Fracassi, nel dubbio, ne abbiamo parlato, ai Paesi Bassi. Sì, ma non te la ricordi, va bene. No. Giovanni, come va lì in Olanda adesso? No, qui va tutto molto bene, in realtà i contagi sono relativamente contenuti, e soprattutto le persone stanno bene mentalmente, che credo che sia la cosa più importante. Quindi, come ti ho scritto, c'è un piano che comincia oggi, la fase 1 comincia oggi, per cui oggi sono riaperti tutti i trasporti, e sono riaperte le scuole primarie e elementari, e si può fare sport anche di squadra con determinati accorgimenti. E per Leonardo, immagino che questa sia una cosa che gli interessi, dal 1 giugno riaperti cinema, teatri e anche ristoranti, anche lì con certi accorgimenti. Per cui dovrò imparare a 15 giorni di tempo per imparare l'olandese. L'olandese, esatto. Sì. Allora, c'è un bellissimo gruppo, curiosamente c'è un gruppo italiano, il gruppo Sipario, è un gruppo di italiani a Leda, e che hanno un gruppo di teatro italiano e fanno spettacoli in tutta l'Olanda, quindi potrebbe anche recitare in italiano. Bello, sto bene, Leonardo. Bisogna vedere se posso spostarmi in Olanda oppure se sono confinato in Lombardia, vediamo un po' se ci si potrà spostare. Vediamo. Credo che dovrò rimanere qui. Temo che questa opportunità di lavoro, ma noi ringraziamo moltissimo Giovanni, ci hai provato in tutti i modi a convincerlo a trasferirsi all'Aia o comunque in Olanda. Per noi sarebbe stata una fortuna, come dire, una risoluzione definitiva, un'eradicazione, certo, del problema. E invece, caro Leonardo, prego, ti do il microfono e ti do la parola. Grazie intanto a Giovanni dall'Olanda. In Olanda, grazie a voi. Vabbè. Allora, ci risiamo. L'hobby principale dei telegiornali è sempre, alla fine, mostrare quanto siamo disubbidienti noi italiani. Così sabato sera al TG1 vedo forze dell'ordine a bordo di moto d'acqua che vanno a controllare 2 o 3 persone che passeggiano solitarie sulla spiaggia, causando evidentemente grande danno alla collettività. Mentre in alto, nel cielo, svariati droni controllano con puntiglio alcuni malviventi che, in sprezzo alla legge, cercano la tintarella rimanendo fermi sul bagnasciuga, con un comportamento che evidentemente deve sembrare più grave di quello di tutti i camorristi, andranghetisti e mafiosi messi insieme. Eh sì, evidentemente hanno sbagliato e continuano a sbagliare quelli che si fermano qualche minuto in spiaggia a prendere il sole. Da quanto ho capito è permesso entrare in acqua e fare il bagno immediatamente nelle regioni dove la temperatura lo permette, però è vietato acclimatarsi rischiando di creare assembramenti e quindi probabilmente non si può bagnarsi un po' la pancia, come faccio io, prima di entrare in acqua per evitare la congestione. Quello è evidentemente un comportamento altamente nocivo per la collettività e va duramente represso con tutti gli strumenti del caso. Hanno sbagliato quelle persone, hanno sbagliato a uscire e a provare a prendere il sole. No, dovevano rimanere in casa a assorbirsi tutte le pubblicità buonine che stiamo vedendo in questo periodo in TV. Lo schermo trasuda di pubblicità buonine, traboccanti di sentimenti, tanto che il mio televisore è praticamente diventato inutilizzabile perché trasuda melassa. C'è uno strato costante di melassa che cola dallo schermo della mia TV. Ma come? Per anni ci hanno detto che i pubblicitari erano degli straordinari creativi, che grazie al loro genio sapevano creare mondi, indurre consumi e acquisti anche totalmente inutili, e adesso da mesi ci troviamo immersi con la melassa fino al collo nella retorica più stucchevole e fastidiosa. Ci mostrano quelle pubblicità, case linde e splendenti, pavimenti puliti, famigliole che si amano e pizze fatte in casa che vengono buone come in pizzeria. Bisognerebbe che quei geni della pubblicità andassero a vedere com'è la vita vera, soprattutto nelle grandi città, case di dimensioni medio-piccole con persone rese spigolose dagli angoli cottura, angoli letto, angoli bagno dove vivono. Persone non con i denti bianchi e splendenti, ma piene di denti cariati, marroni, che talvolta non hanno più nemmeno i soldi per curare, e pizze fatte in casa che sembra di mangiare il pongo, come vengono le mie, o secchissime o di pongo. Invece no, la colpa è di chi cerca un minimo di normalità. Non importa che in questi mesi ci siamo sentiti dire tutto e il contrario di tutto, che il virus non sarebbe arrivato, che le mascherine non servivano, che adesso sono indispensabili, che il virus era pericolosissimo e che era come un raffreddore. Anche ora tra gli esperti che occupano le nostre case c'è chi sostiene che il virus stia perdendo forza e che invece dice esattamente il contrario. Tutto il contrario di tutto, sembra di essere al bar. Anzi, io, grazie a loro, grazie agli esperti, ho rivalutato le discussioni da bar, per non parlare della politica, con alcuni leader che dicono che rifarebbero tutto quello che hanno fatto, qualsiasi cosa abbiano fatto, rifaremmo tutto. Bravi. Certo, perché la colpa è di chi va a prendere la tintarella in modo irresponsabile, la colpa è di chi ha paura che i figli si rincoglioniscano tutto il giorno davanti al video, la colpa è di chi sta a casa senza lavorare e non ce la fa più, la colpa è solo nostra. E questo è il messaggio che trasuda da quelle TV piene di esperti e di pubblicità buonine. Forse anche per questo che cerchiamo di uscire di casa, per non sentire più quella montagna di stupidaggini che ogni giorno invadono tragicamente le nostre case. Bravo, bravo Leo. Sottoscrivo parola per parola, parola per parola. Dai, dobbiamo andare al giornale radio, poi state... Uno, nessuno, 100 Milan. Non ce la possiamo fare. La pandemia doveva renderci più umani, invece le bestie rimangono bestie, anzi, tenuti in cattività, sono diventati anche più rabbiosi, e non è una metafora. Mentre mi sembra che questa pandemia ci abbia dimostrato che i confini non esistono e che siamo tutti nella stessa barca, e solo fortunati se siamo nati qua e non in altri paesi dove si sta molto peggio. Ma mi dispiace un po' contraddire quell'ascoltatore di prima, ma non è vero che i paesi cosiddetti seri come Stati Uniti o Inghilterra non pagano il riscatto per liberare i loro. È che non ce lo dicono, perché li pagano senza problemi. Quindi bastava da parte dei servizi segreti dire non è stato pagato alcun riscatto, tanto è quella la verità. Buongiorno a tutti, si mangerà sicuramente tutti centrifugati e con la cannuccia, estratto di bistecca fiorentina in cannuccia. Vabbè, vabbè, ma infatti non è che c'è una comunicazione, è stato pagato il riscatto, sono quelle notizie che escono sui giornali, si parla di Silvia Romano ovviamente. Devo dire, sì. Aspetta, aspetta, ricollegati perché sei zoppicante. Devo dire anche all'ascoltatrice che noi qui, io, Manera, non abbiamo mai detto che, anzi, sono sempre stato contro la retorica del saremo migliori dopo questa vicenda. Io credo che torneremo a essere quello che eravamo prima in maniera più acuita, quindi chi era sano sarà più sano e chi aveva qualche rotella storta sarà con tre rotelle storte. E io come divento secondo te? Tu, guarda, ecco, devo dire, c'è, con una ruota di scorta, con una ruota di scorta. No, devo dire, c'è Letizia Puccioni, che saluto, collega, amica di 105, che ha detto che sottoscrive ogni riga di quello che tu dici. Quindi, l'appello che io faccio è questo, potete prendervelo al 105, Leonardo? Scherzo, so che scherzo. Anche tu hai dei colloqui in corso con 105, tra l'altro, perché ho saputo che forse ti pagheranno di più, pensavi di andare là. È vero. Sì, l'ho saputo, vero, anzi lo dico alla Scaglioni, responsabile dei programmi. Va bene, dillo. Allora, un abbraccio a Letizia Puccioni. Adesso però ritorniamo molto seri, perché io voglio aprire una parentesi. Mi ha molto colpito leggere questa notizia che ci racconta una donna che torna con noi, io la ringrazio, già è stata straziata dalla vita per la perdita della figlia Elena, forse ricordate Elena Aubry, morì in seguito a un incidente in moto sullo Ostiense, era il 6 maggio 2018, aveva 26 anni. Allora, la signora Graziella ne è la mamma. Buongiorno signora Graziella Viviano e ben ritrovata. Buongiorno a voi. E noi la ringraziamo perché lei ha sempre avuto la forza, la capacità di mettere la sua voce, la sua faccia, il suo volto per cercare intanto giustizia. Adesso io come devo approcciare questa notizia che lei ci racconterà? È incredibile, ma qualcuno ha rubato le ceneri di sua figlia. Non ho molto da aggiungere. Nel senso, guardi, che, io non mi crede che ci sto pensando, ovviamente da quando è successo. Non ho la più pallida idea né di chi né del perché. Non riesco a capire. Insomma, non riesco. Io sono una donna. L'ultima volta che hanno rubato una salma, un corpo, è stato per Mike Bongiorno. Ma parliamo di persone, gente che comunque facoltosa, no? Che ha. Io non ho neanche un reato odioso, però. Con un senso, con uno scopo, con un obiettivo squallido, ma con un obiettivo. Io non riesco a capire chi può aver fatto una cosa di questo genere, se non un folle, chiaramente un folle, Elena è diventata un simbolo per tante persone, forse questo può aver portato un passo a, come le posso dire, a volersi appropriare delle ceneri di una ragazza, non lo so, io sono, ho qualsiasi, come dire, qualsiasi idea, qualsiasi, può essere giusta, può essere sbagliata. No, c'è, ma è chiaro che lei nel nulla si deve fare anche queste domande e dire porca miseria, cioè datemi almeno un senso a questa cosa che non ha, che non ha più senso. Sicuramente quando... una cosa ha creato questa persona, per quello dico che può essere solo un folle, siccome ha alzato una, come dire, uno sdegno mediatico forte. Da parte di tante persone, da parte è chiaro che questa persona non ha una, come posso dire, ha messo da una, come dico sempre, dal piatto della bilancia alla fine sono delle ceneri. Io, mia figlia vola alto, io credo in questo, quindi che mia figlia sia è in un'altra parte, quindi ha preso delle ceneri, dall'altra parte ha messo la sua vita. Questo signore, perché è chiaro che non avrà che è perdente in questo no, lei ha fatto anche un appello che se vuole anche rinnovare qui a Radio 24, tante volte magari sta ascoltando, a dire riconsegnamela anche in forma anonima, no? Sì, esattamente, io dico esattamente questo, visto e considerato che non è che hai rubato le ceneri, hai rubato le ceneri un po' di una ragazza che è nel cuore di molte persone, tra cui di molti, molti motociclisti, quindi ti sei sollevato contro un mondo. La cosa più stupida che puoi fare, io dico sempre, parlerei questo, ho pensato come posso parlare, entrare in un difficile ordine di idee, cercando di parlare a questo come se fosse un figlio, potrei dire a un figlio: hai fatto una stupidaggine, cerca di non farle un'altra, cioè quella di distruggere le ceneri di Elena, falle ritrovare, perché nel momento in cui distruggi le ceneri di Elena, allora veramente lì ti trovi davanti non solo una madre determinata, che mi pare in 2 anni di aver dimostrato che non sono una donna che molla la presa, come dire, sono abbastanza determinata in ciò che faccio, in ciò per come mi muovo e sotto gli occhi di tutti, insomma, quindi, come dire, non mollo, sono un cane da presa, non mollo la presa, e oltretutto ti trovi dietro un mondo arrabbiatissimo, mentre sì, io vorrei dare una chance a chi ha fatto una cosa del genere, perché c'è si può ancora rimediare. Cerca di consegna le ceneri, troviamo un sistema per come ti posso dire non ti scatenare il mondo dietro, e non è una minaccia, ma è quello che succederebbe. Già io ne veramente sento di tutto e di più, insomma, questa persona non avrà vita facile, per cui certo, a lui o a eventuali complici, uscitevene fuori, c'è una possibilità per uscirvene fuori, che è questa di consegnare le cene. Sì. Almeno Leonardo, uscitevene fuori. Mi sembra che sia escluso lo scopo di estorsione, no? Da quello che ci ha detto la signora. Ma guardi, io non sono una persona ricca, quindi che ne so, a meno che non sia un folle, ma è possibile che nessuno sapeva, il primo giugno lo sapete, Elena, insomma, le persone non sapevano quello che è successo, come è stata portata, chi fosse Elena, come, perché io ho fatto anche un altro appello, ho detto a tutti i romani, ho detto andate a vedere se dopo il Covid, la chiusura dei cimiteri, tutto è posto nei vostri cimiteri, per capire se era solo successo a Elena o è successo ad altre persone, perché questo farebbe cambiare, no, la logica del discorso. Certo. Però da quello che so, no, è stata una cosa precisa, mirata, anche per come hanno lasciato lo Stato, no? Hanno signora Graziella, tutto. No, ma è davvero incredibile. Facciamo così, noi siamo qui, ripeto, ci tenga informati, tanto insomma l'appello è stato, per quanto possa servire, è stato lanciato anche da qui. Ripeto, la mamma di Elena Aubry, che incredibilmente ha scoperto che sono state sottratte le ceneri al cimitero. Elena era una ragazza, la conoscete, di 26 anni, morta in un incidente solitario, nel senso probabilmente caduta su una buca sullo Stiense il 6 maggio 2018. La vicenda è incredibile, non c'è molto da aggiungere se non rinnovare anche l'appello che ha fatto la mamma, a dire chiunque le abbia sottratte le restituisca. È tutto qua. Caro Leonardo, succede anche questo, è abbastanza incredibile, ma succede. Allora, noi dobbiamo andare alle informazioni sul traffico. Hai visto che è aumentato un po' il traffico? È aumentato. La così gente dicono, si sposta. Sì, ho sentito che ci sono code. Sì, sì. Sì. Oggi anch'io oggi vado a cercare una coda con la macchina. Io voglio avere questo scopo della giornata: cercare una coda. Questo brivido. Poi dopo avremo ospite tra un minuto un mito. Dico solo così: l'estetista cinica. E poi dopo vedremo tutto tra un attimo. Uno, nessuno, 100 Milan. Manera, cambia lavoro, serve mano d'opera per andare a raccogliere la sparago di Alteno IGP. Io vorrei dare il 2 per 1000 a Manera e a tutti gli artisti per far partire la cultura in Italia. Altro che ai partiti. Vabbè, il 2 per 1000 a Manera, vabbè, un'elargizione solidale si può fare. Lui ha dato già l'IBAN varie volte, quindi... No? Stiamo per partire con un'iniziativa, te ne avevo parlato questa settimana. Partiremo un'iniziativa che si chiama un pacco per lo spirito, che è quello, ne parleremo in settimana, insomma, che riguarda non vedo l'ora, infatti. Allora, ci si deve dar da fare da soli. Ecco, ci si deve dar da fare da soli anche durante questa chiusura. Allora, è un mito, devo dire, non tanto magari per Leonardo Manera e per me, anche se ne avremmo bisogno, l'estetista cinica, cioè Cristina Fogazzi. Buongiorno, blogger, estetista, imprenditrice. Cristina, buongiorno. Buongiorno. Che emozione è intervenire dopo le notizie sul traffico, la prima volta che non c'è traffico tra Cormano e Viale Certosa. appunto, tra Cormano e Viale Certosa, per chi non fosse di Milano, c'è traffico sempre. Io esco a Viale Certosa e vengo da Brescia, e tutte le mattine c'è la roba tra Cormano e Viale Certosa, tra Cormano e Pero, all'uscita di Viale Certosa. È vero. Allora, oggi leggevo sul Fatto Quotidiano un pezzo di Silvia Donghia sulla ricrescita selvaggia e su tante altre questioni che soprattutto le donne, ma anche gli uomini, conoscono bene. Però ho letto anche un problema di capelli in questo momento qua, perché voi crescono, vanno fuori posto, cioè sai, una donna al massimo a Manera no. Io ho avuto amici scempiati dalle proprie mogli nel tentativo di tagliare loro i capelli, cioè delle robe improponibili. Sai, le donne li facciamo allungare, ma per voi a un certo punto diventa un po' imbarazzante. Però attenzione, udite, io sono rimasto colpito. Aspetta, Leo, ti dico solo questo dato: è vero che l'estetista cinica, è vero che Cristina Fogazzi in questo periodo di chiusura ha fatturato tantissimo? È vero, avrei preferito fatturare tantissimo senza il Covid, devo dire la verità, o anche avrei preferito fatturare anche meno, guarda. Sì, però è vero che è successo questo, ma io credo che sia un caso mio, sia un caso un po' di tutti gli e-commerce, non uscivamo di casa. L'e-commerce, cioè queste no, perché se no uno dice ma come, erano chiusi tutti, esatto, no, con, sì, l'e-commerce, no, con l'e-commerce, con l'e-commerce. Io avevo un e-commerce che andava già bene, insomma, ecco, non... c'eravamo già sul mercato, l'anno scorso abbiamo chiuso a 27 milioni di euro e quest'anno comunque stavamo crescendo, però diciamo che sì, il lockdown e quindi il fatto che la gente stesse a casa ha spinto molte persone che non avevano mai acquistato online, magari perché tutti si sono avvicinati un po' a questa, io credo che anche l'ultimo degli ultimi refrattari agli acquisti online in questi mesi abbia fatto almeno un acquisto online. Stupendo. Io ci ho provato. Tu, Leo, sei curioso. Vediamo che cosa hai cercato di prendere. Allora, è da un po' di tempo che cercavo una sedia a dondolo, perché mi ricorda l'infanzia, il nonno, eccetera. Ho comprato una sedia a dondolo online, ma ieri mi è arrivato il rimborso. Mi hanno detto le rendiamo i soldi, non me la danno. Non è vero, ma perché? Ma l'unica storia amara l'ha trovata Manera. Io compro le cose. Io compro le cose e arrivano, non lo so. Perché? Allora, perché praticamente ho capito che alcune aziende non possono più in questo periodo, non hanno potuto rifornire il magazzino. Vero. E quindi poi tu magari facevi l'ordine online, il magazzino non c'era e ti rendevano i soldi. Quindi l'unica cosa che ho ordinato, che era una sedia a dondolo, mi hanno detto no. Non è arrivata. Cristina, che dobbiamo fare? Nel mio caso sono stata più fortunata, nel senso che io produco prodotti cosmetici e il codice Ateco, cioè, ormai siamo tutti laureati in codice Ateco, dei prodotti cosmetici facendo parte dell'industria chimica, non è mai stato bloccato. per cui la mia produzione ha potuto andare avanti comunque a produrre. Quindi, produzione e vendita. Certo punto, non avrei più potuto neanche io vendere perché non avevo più il prodotto, cioè, quindi tristemente è vero l'episodio della sedia a dondolo, cioè se la produzione era ferma, chi ovviamente a un certo punto ha trovato magari non ha potuto avere. Allora, ma qual è il, qual è il prodotto? Certo, e questo getta in uno stato di prostrazione. Ma ve lo immaginate con la pipa, la vestaglia, la sedia d'uomo? Ma come? Ci sarà un altro produttore. Allora, facciamo un appello. Un appello. No, vorrei spiegare. Io ci ho messo 2 mesi per trovare la sedia a dondolo che mi piaceva. Cioè, le ho guardate ecco, tutte. Quando su Google appare, lui mostra tutto. Mostra tutto. Io mostro tutto. Capriccioso e capriccioso. Che trattamento estetico di che trattamento estetico avrebbe bisogno Leonardo Manera con i suoi capricci? Nessuno, ma teniamolo così. Vabbè, ma qual è il prodotto che gli italiani hanno richiesto più degli altri? I prodotti che sono stati chiesti più degli altri sono i miei best seller, che vabbè, se ti dico i nomi non ti dicono niente, sono detergenti per il viso e prodotti per la cellulite, del quale voi non avete bisogno, dei detergenti per il viso magari sì, ma il prodotto per la cellulite no, sono quelli che già vendevo, perché secondo me, sai, magari la persona che non aveva mai acquistato online un po' dei miei prodotti aveva sentito parlare, però di solito acquistava in profumeria piuttosto che, per una volta ha detto fammi vedere, fammi capire. Sì, tra l'altro Cristina, la nostra devo dire, la nostra Elisabetta Fusconi in redazione ci scrive ora questo messaggio: due uomini che discettano con la mitica estetista cinica non si possono sentire. Cosa possiamo fare? Allora, fatti una domanda da donna, Cristina, e rispondi da estetista donna. Che domanda ti farebbe un'intervistatrice donna in questo momento? L'intervistatrice donna in questo momento mi chiederebbe cosa bisogna fare mentre si sta in casa, non lo so, per le mani screpolate, c'è tutto un tema screpolate durante il lockdown. Invece perfetto, e cosa risponde? Parla di quei soldi, hai capito? Se il mondo si divide tra mani screpolate delle donne e l'intervistatore uomo rimane ammacinato dai fatturati. Dal fatturato, certo. Bene, allora, aspetta, è un po' la versione di Marzullo dell'intervista a Cristina Fogazzi. Ci faccio una domanda da donna e l'ha fatta e ci dia una risposta da estetista. E quindi cosa risponde l'estetista cinica? Beh, cosa fare per le mani screpolate? Certo, quella è la domanda. Ma tu e Manera, vivete questo problema della mano screpolata? Io ce l'ho. Continuando a lavarsi le mani con detergenti, a mucchine, esatto, eccetera, si screpola. Ma io ho delle creme solari che sono rimaste dall'estate. Tipo. Anche le creme solari. Quelle che si mettono dopo sole. Buttare via, buttare e ricomprare, fatturare. Fatturare. Dai, non girare l'economia. Le creme dell'estate scorsa le buttiamo. Se sono già state aperte, sicuramente hanno superato il PAO, che è il periodo after opening. Quindi via Manera le creme, che magari via. Vabbè, adesso anche noi abbiamo le mani screpolate, abbiamo capito questo, quindi siamo donne anche noi. Avete una crema mani, cioè una crema qualunque, anche il vapor sole dell'anno scorso, in questo caso può andare bene, vi mettete uno strato spesso e infilate le manine dentro 2 sacchetti freezer. Le manine dentro 2 sacchetti? Sì, dentro 2 sacchetti di plastica, le tenete così per una mezz'ora, anche 3/4 d'ora, mentre state davanti alla televisione. Non posso dire neanche guardare la partita perché non c'è. Ci sono quelle registrate. Ma è stupenda questa. Ma Leonardo, lo fai? Ti fai una foto poi? No, cioè, come fa però a farsi la foto? Come fa con la foto se c'è le due mani impacchettate? Qualcuno che la accatta al posto tuo. Faccia una combo, invece mette le mani. Pensavo che per la foto. Pensavo che per molte donne il problema principale fosse la ceretta, così mi dicono, insomma. Ma io ho consigliato a tutte di non fare avventure strane con la ceretta, di usare il rasoio per una volta, che non succede niente, non si trasformeranno in un gorilla. In baobab. Non cresceranno le sequoie. Se non si è pratica, rischia di fare più danni che il rasoio. Eppure guarda qua, proprio sul Fatto Quotidiano Silvia Donghia dice che il kit scaldacera è uno degli oggetti più più richiesti. Più cercati, sì, è vero, il kit scaldacielo è stato cercatissimo, poi hanno combinato di tutto però con quel kit. Invece tu consigli, no, io rasoio, poi magari una se invece è brava e se la fa, da, perché ci sono quelle super brave, però se non si è particolarmente avvezzo, suggerirei meglio il rasoio e aspettare la riapertura dell'estetista. Vabbè ragazzi, niente, ci ha dato questi consigli Cristina Fogazzi, l'estetista cinica, la trovate così, blogger, estetista, imprenditrice, insomma, mitica. Quando vuoi siamo qua per darci dei consigli, anche per farti delle domande da donna e fare delle risposte da donna, perché insomma, che possiamo fare, siamo vabbè, uomini. Pensavo non ci volesse parlare di chile denaro, invece siamo finiti a parlare di ceretta. Vedi. Ragazzi, va bene, ciao Cristina, un grande abbraccio, andiamo a sentire la borsa e poi torniamo qui. 1, nessuno, 100 Milan. Dunque, per quanto riguarda i ristoranti, basta usare la mascherina fetish, ogni boccone, apri la zippo, metti in bocca il boccone e chiudi la zippo. Noi italiani siamo sudditi. Milan, non mi fare girare le scatole che tu stamattina, che ci ho già pensato ieri in maniera. Oh, vuoi fare i paragoni con l'Olanda? Ma che cacchio dite? L'Olanda è l'Olanda, l'Italia è l'Italia, ma quando mai noi? Ma quando mai? Al guinzaglio dobbiamo andare. Teniamo presente che le multe in questo periodo sono l'unica fonte di reddito dei vigili e dei comuni, per questo sono così inflessibili le forze dell'ordine. Questo un po' è vero anche. Allora Leonardo, mi sono svegliato stamattina, la temperatura è crollata, impicchiata a Milano. Appena ho visto mi è tornato in mente, non so perché, paragonabile al racconto che ci hai fatto quando sei andato al lago d'Ascona, dove eri in Canton Ticino. Ad Ascona, sì, vicino ad Ascona, in Canton Ticino, c'è un lago lì che è freddo, molto freddo, con i sassi, anche un po' melmoso. Ma chi è che ti aveva consigliato questo? Chi è che ti aveva consigliato? Il mago? No. Allora, ero andato a fare uno spettacolo nel teatrino di Ascona, gestito dal mago Fantasios. E Fantasius mi ha detto: se vuoi fare rilassarti, vai su al lago, fai un bagno, poi va a mangiare un hamburger a Ascona. Così parla il mago Fantasius. Ma sì, il mago Fantasius parla proprio così. Ma chiediamoglielo, mago Fantasius! Buongiorno, mago Fantasius! Buongiorno! Buongiorno, ciao a tutti! Il mago Fantasius! Oh, ciao, che sorpresa! Ciao. Sì. Come stai? Ma sto bene, ti ricordo, saranno forse 20 anni che non ci vediamo. Senti, tu sei venuto al Teatro Varieté Ascona il 24 maggio del 96. Stupendo. Premessa, Leonardo, allora mago Fantasius, Leonardo non sapeva nulla, è proprio una caramba, una sorpresona gli abbiamo fatto. Una sorpresa anche per me, è una vita che non ho più avuto, contatti, però ho seguito, ma ultimamente ho avuto dei problemi di salute, ho dovuto lasciare un po' il mondo dello spettacolo. Mannaggia, questo ci dispiace, questo ci dispiace. E adesso tutto va bene, sono pienamente in forma, va bene. Allora, vediamo un po', perché Leonardo, vediamo un po' come la versione del mago Fantasius di Leonardo Manera, che ci raccontava come, poi dopo sentiamo, beh effettivamente un pochino ci assomiglia. Cos'è che hai detto che faceva Leonardo, faceva comparire? Vai. Allora, faceva comparire il mago Fantasius, era famoso perché faceva comparire animali, e prima la produzione di fulare, poi sotto faceva comparire animali e pappagalli, se non ricordo male. Esatto, giusto. Cioè io facevo apparire, il mio numero era composto da animali, da pappagalli cacatua, 7 pappagalli cacatua, 2 gatti persiani, e oltre una oca, un'anatra. Era un misto. D'altronde ho vinto il campionato mondiale nel 79 a Bruxelles alla FISMA, primo premio straordinario. Per il numero degli animali. Straordinario. Allora, tra l'altro vogliamo dire Alfonso Paganetti, questo è il nome, sì, in arte, sì, mago, sì. Fantasios. Da non confondere con un altro famoso mago che era il mago Fantasio, senza S, sì, due persone. Sì, argentino, era specializzato argentino nella produzione di bastoni e tutto un altro genere, insomma. Esatto, hai ragione. Ma io vorrei sapere dal mago Fantasios una cosa, ma quella famosa sera Leonardo Manera ti ha amareggiato come capita spesso? Cioè, era amaro in quella giornata? No, ero andato con la mia fidanzata, non so se Fantasios si ricorda che ero con una ragazza. Sì, mi ricordo, sì, mi pare se non era, aveva i corti capelli, giusto? Lei non facciamo sì, un gaff, po' eh? Non facciamo sì, un sì, po' sì, sì, però mi ricordo che avevi la fidanzata. E poi ci avevi mandato a fare il bagno. Ci avevi mandato a fare il bagno nel lago che c'è lì ad Ascona. Confermi, senti, che c'è un lago lì ad Ascona. Sì, lago. Senti adesso come Fantasios fino a 2 giorni fa diceva che era un lago con l'acqua melmosa, con l'acqua, no, con l'acqua, no, no. Con le pietre aguzze, un lago, è stato un bagno pessimo, una roba. Adesso sì, lo ricorda come uno dei momenti più belli. Grazie Fantasios. Grazie a te, ho avuto una bella soddisfazione lavorare con te. Mi ricordo, se tu ti ricordi, io e te abbiamo fatto, solo io e te, uno spettacolo all'aperto in un parco a Muralto, che era le feste di luglio del 96. Io e te abbiamo lavorato insieme. Invece quando tu venivi al Teatro Verità Ascona facevi il tuo spettacolo. Ed era venuto insieme a me anche il mago Jordan, non so se ricordi, c'era anche Jordan. Certo, mago Jordan, ancora tuttora siamo molto in contatto, abbiamo avuto tante belle soddisfazioni insieme, abbiamo anche organizzato dei bei festival della magia insieme. Adesso Jordan è diventato presidente del CMI, in Italia ha il suo merito, è un appassionato come sono io, e si continua su questa strada. Sì, sì, sì. E quindi vorrei far presente a te, Alessandro, e anche a tutti gli ascoltatori, sì, che state parlando con una persona che ha vinto il premio FISM, che nel mondo della magia è come vincere un mondiale, è la cosa più importante, sì, che c'è. Quindi anche se tu, Alessandro, cercavi di denigrare tutto l'ambiente, no, no, magico. Tu che sai cosa faceva Fantasios, parlava denigrando un po' la pronuncia ticinese, un po' così, sì, dicendo che il mago dialetto. Fantasios, insomma, sì. Tra l'altro mago Jordan, che anch'io saluto, l'ho visto al Festival della Magia di Raul Cremona nella scorsa edizione. Insomma, che bello questo momento di carrambata. Fantasios, wow, mi raccomando, sì, insomma, niente, siamo qui quando che vieni in Italia. Mi fa molto che bella piacere Leonardo. Ma lì si possono fare spettacoli lì in Svizzera adesso, no? Leonardo, sono 25 anni fa che noi parliamo, da allora a oggi è cambiato moltissimo, le difficoltà sono enormi e lo spettacolo è andato giù a picco un po', No, ma adesso poi con i teatri, avere ingaggi e organizzare è diventato complicato, specialmente perché la parte importante è quella finanziaria, non ci sono più i cachet che si prendevano 25 anni fa, ed è da dimenticare. Lo spettacolo per me è decaduto in qualità, perché grazie all'internet, a YouTube, a tutti questi social, è stato compromesso gente che vuole fare i soldi senza far fatica e hanno la possibilità di copiare. Ci sono troppe copie, ma copie veramente brutte. Non l'originale. Grazie, un grande abbraccio. Un grande abbraccio, Fantasios. Ciao, piacere di averti sentito. Ciao. Grande, fantasia, hai visto? È la conferma che io non racconto bugie. Ecco, si smentisce questa favola. Hai capito, Anacleto? È la conferma che lui non racconta bugie. Capito, Anacleto? Buongiorno a tutti. Ora, dopo questa conversazione, che io è veramente fuori dal mondo, perché è una branca di bugiardi. Ora non è vero. Ma se quello lì ti telefonava dal bar Jimmy, era sotto casa è il grande mago Fantasios, campione mondiale. Ma lo sai che Pinocchio smuove qualsiasi cosa? Era dal bar Jimmy, se ritrovi stamattina, ha bevuto una birra e via, ma che sei grullo, dai. Questi è bugiardi, questi non ci arrivano, Ma però ti sentiamo ripreso, non sei più in fila, secondo me, al supermercato. Sono in tappa di avvicinamento al mio paese, sono qui davanti al castello di Bellavista, uno dei più belli della Toscana. Stai guidando? Mi sono fermato e c'è una pattuglia dei carabinieri qui davanti, allora mi sono fermato. Hai capito, Grullo? E oggi vado a mangiare dal mio amico Alberto Lupoli, si mangia in giardino uno spuntino e poi stasera non potresti fare un assembramento così? Cos'è, un affetto stabile questo amico? È un affetto stabile, non c'è mia vuota. Ma davvero, quel mago lì è tremendo, mi calma. Portatelo alle piastre ora agosto. Smettila alle piastre, c'è il campionato nazionale della bugia. Mondiale, capito? Ciao Anacleto, vai a mangiare. Violi decreti. Se vai a mangiare dall'amico, violi i decreti, sei passibile di multa. Andiamo al traffico. 1 nessuno 100 Milan. Come here, baby. You know you drive me up a wall, the way you make good for all the nasty tricks you pull. Seems like we're making up more than we're making love. And it always seems you got something on your mind other than me. Ciao Ale, sono un skipper e ogni anno le persone che vengono a bordo da me mi lasciano quintale di creme solare che puntualmente io devo buttare. Se vuoi se la mando al caro Manera, così la usa per le mani screpolate. Manera, ad Ascona c'è il Lago Maggiore, è lo stesso che c'è a Sesto Calende. Mamma mia che Pinocchio, Manera, Pinocchio! Ma non è vero, per una volta che ci ha raccontato un particolare... Vabbè, niente, non ti togli questa nomea. Vorrei che telefonasse un giorno qualcuno da Ascona e ci descrivesse com'è quella parte del Lago Maggiore, che oggettivamente, insomma... Non è, secondo me, l'ideale per fare il bagno, poi ognuno ha la propria. Vediamolo, se no, su YouTube. Hai sentito come il mago Fantasios? YouTube! Su YouTube? E vedi. Bon. Allora, va bene, però come ci ha detto Anacleto ci ha parlato di un bel pranzo, va a pranzo da un amico, non si potrebbe Anacleto, io sono contento, mi è venuta già fame, per questo sono felice che torna con noi il nostro Bernardo Ferruccio Ronchi Baronchelli, nostro cuoco, nostro chef emozionale, buongiorno a tutti, non chiamatemi cuoco, per carità, guardi, già il periodo è abbastanza complicato, mi dispiace sentirmi chiamare cuoco, ecco, mi può chiamare eternità, qualcuno mi chiama purezza, altri mi chiamano signor dopo. Va bene, certo, perché quando vieni da me ti dimentichi della tua vita precedente, quindi mi chiamano signor dopo, dottor signor dopo. Ma guardi, vabbè, trovo la sua ilarità completamente fuori luogo. No, guardi, ma ero sorridente, cioè, faceva sorridere. Piacevole, discutibile. Ma guardi, mi saluto, mi dico buongiorno, dottor dopo. Ecco, quindi non vedo cosa ci sia da ridere. Che ignoranza, ignoranza grassa suscita sempre ilarità. Va bene, allora la mia dimora culinaria, il desco di Nietzsche, lo sapete, a Pannocchio di Castelbiondo, è chiusa. Mi hanno detto che posso fare servizio da asporto, ma appena sentito servizio, ecco, io appena sentito servizio e asporto, sono svenuto per 10 minuti, servizio asporto. E perché è una bella bistecca? Testa, ma guardi, mi passavano immagini di contenitori in plastica e carta stagnola. Io l'inferno me lo immagino così: contenitori in plastica, posate monouso, la carta stagnola delle mie creazioni. Che onore, che onore. Mi tocca allora ancora una volta ribadire, spiegare, sì, ribadire, che il mio non è un ristorante, ma è una certezza che illumina l'ignoto. E ditemi voi come faccio a illuminare l'ignoto se ho le mani occupate a distribuire sacchettini di posate usa e getta. Perché lei sa che il mio, diciamo, avventore cosa fa? Parte dal cibo, se così vogliamo chiamarlo, e ritrova tutto ciò che ha tenuto nascosto fino a quel momento, per esempio i soldi che ha messo nel suo conto corrente in Svizzera. Perché il costo, devo dire, è un pochino elevato, se vogliamo parlare di costo. Lo ammette, finalmente. Ma insomma, sono 300.000 euro, bevande escluse. Ma io dico, non è meglio spendere 300.000 euro per una cena che non 20 euro e mangiare male? Su questo siamo tutti d'accordo. Un'esperienza emozionale. Sì, vabbè. Da me non si viene per cenare, vai a mangiare la pasta alla ragù alla tavola calda se vuoi cenare, si viene per lasciarsi incantare dal profumo dell'infinito, senta com'è un'altra dimensione, tutto emozionante, emozionale. Allora, ho sentito invocare il mio nome, qualcuno ha pensato, ecco, speriamo che il dottor Dopo ci regali una sua creazione. Sì. Io voglio regalarvi una delle mie creazioni. Il titolo è il reale non è reale. Allora, il reale non è reale. No, scusi, aspetta, ce lo rispieghi meglio perché... Allora, il titolo di questa creazione è il reale non è reale. Allora, gli ingredienti sono 1 mm² di uovo, e 1 mm² di sale. Allora, l'uovo, ma che ilarità, è veramente disgustosa. È che veramente, lei ha ragione, della mia è un po' irrispettosa. Sì, è un po' irrispettoso. Trasmissione, lei digrigna i denti ridendo come un primate di altre generazioni. Allora. No, ha ragione, scusi, è che un millimetro, ecco. Io tutte le volte non ce la faccio, vabbè, scusi. Allora, un millimetro quadrato di uovo, dottor Dopo, un millimetro quadrato di sale. L'uovo, Savasandil, è simbolo di cosa? Di cosa? Di fertilità, la nascita, la fertilità, bravo, fertilità. E quindi di nascita, ma anche di rinascita. Mentre il sale, con la sua trasparenza, è un invito a guardare oltre per vedere ciò che si cela al di là delle cose. Allora, prendete l'uovo e buttatelo in una padella bollente. Sì, millimetro di uovo. Sì, poi fate lo stesso con il sale nella padella bollente, aspettate qualche minuto. Quindi prendete il manico della padella e lanciate in aria il contenuto con un gesto deciso e voilà, sicuramente si sarà spiaccicato il millimetro di uovo col millimetro di sale. Lo lanciate in aria con gesto deciso e sicuramente, lasciate cadere, si sarà tutto spiaccicato al suolo. Sì, se lo ritrovate, perché è un millimetro. Vabbè. Qualcuno potrebbe pensare di aver rovinato una frittatina, e invece no. Perché si tratta di un nuovo orizzonte di senso in cui il visibile, cioè l'uovo, si trasforma in invisibile, cioè nella padella desolata. Ecco. Quindi il reale non è reale. Abbiamo il senso della desolazione della padella e il visibile precedente che era il millimetro di uomo che è spiazzicato a terra è diventato invisibile. Sì, sì. E questa è una tutto grande questo operazione. Per una cifra... Ma facciamo così. 270.000, facciamo. 200. Senza allora. Bevande. Perché poi... Ma naturalmente le bevande. Ecco, bevande, già il termine bevande è volgare. Bicchiere le bevande. Di vino. Che bevanda bicchiere. C'è? No, mamma mia. Caro male. Dottor potete, Dopo, eternità. Potete farlo a casa, oppure sì? Venirci a trovare quando riapriremo al desco di Nietzsche per immergervi in una vera esperienza gastro-olistica. Quindi, noi grazie a tutti, da Bernardo Produccio Ronchi Baroncelli e da mia sua moglie Maria Assunta Benedetta Bernarda Intingolo Paciulli. Ecco, ogni volta con la quale condivido. Vabbè. La mia va bene, quarantena. Caro dottor Dopo, noi la ringraziamo per questa sua creazione e ci ritroviamo domani a questo punto. Non so se è tornato Manera per l'urlo di battaglia oppure se n'è andato. Va bene. Allora noi ci troviamo comodamente domattina alle 9. Uno, nessuno.